saluti. Ciao Lazzarino, buonasera. No, stavo provando, regolando la radio di Zapparicchio. Ah, che lo provo. Perché ho finito di chiuderla adesso, ho regolato la radio, c'era la radio tutta chiusa adesso. Ma ciao. Bici dai Gigi. Silvio Berlusconi è morto. Hanno perso tutte noi. Ah, vedi, se fai stai io da chi di no. Oh, Natali, guarda questa radio com'è. E telefonica è. Bene qua. Com'è? Telefonica, pronto? E radio 4, telefonica. È una radio normale. Questa bene qua. E però è bassa. Bassa. E vado a vedere se è bassa. Adesso com'è? Adesso sì. E il microfono basso ci avevo. Sì, andà bene Lucia. Quindi va bene, guarda un po'. Sì, e questo è il tanne più 3, dai. Ho aumentato dal trimel. Vabbè, sono a distanza, eh. Ma va bene, chiara e bella voce. KK, allora lascio così, dai. Perché se l'aumenta ancora va a strappare. Così va benissimo. Sì, tu sempre con colori, sì, col Polmar. No, da col Polmar. Passato fino adesso. Non andremo a Carruccio, il radio. Per carità. Io ho fatto una cazzata a studiarne quella che c'ha avuto, quella piccolina, che è cosa ci vogliamo fare? Ma gli andava pure vita, dai. Il barbiere? Ho che la giugiamba tutto rovina il microfono. Tutto, nuovo. Voi eravate 5? Eravamo 6. 6? 6. Ah, è primo genio. Venivo responsabile per tutto. Quello responsabile, quello che quando è morto mio padre, di stabilità. Tutto va, vai. E questa cosa ti ha... sono pieno di stazionari, con lo scala. Tu? Sì, ci sono in avara sacando un rubino. Però noi abbiamo i stazionari, vabbè. Allora ti devo fare una geostazionaria, così me. Madonna, quant'è? 1,7. 1,7 di stazionarie. Questa antenna è una grande merda. Per carità. Vediamo così, lascio così. Se no è un casino. Franco, come ti sto arrivando io a te? È un passaggio, il segnale non è forte, non capisci. E un cavo solo chi scende di lassù. E suga, come mai? Ma è mimica e cosa vuoi che ti dica? Voluto approfondire. È possibile, secondo me è anche la tua filo. Senza filo sono sicuramente. Madonna, e come ha fatto a tirarmi un filo dall'antenna? Tirando, mirando. Le cose. Per casino. Quindi, oh, la pieno stazionario, e allora stai uscendo senza antenna. Sì, e io ne ho uno che ne senti. E se l'antenna che va giù sicuramente va a problema. Adesso devo misurare quel filo a vedere se mi basta, ragazzi. Me la butto giù, in settimana, attendi la dico. Vabbè, io non posso modulare, se non brucio tutti, no. Vabbè, quarantenni no, ce l'hai un'antenna a mettere lì. No, non ne ho. È il casino. E io mi batto. Lo caffè, allora, dai. Ecco la faccia a vedere se si vede il filo, se è attaccato o no. No, non è attaccato, tranquillo. Ok, se farà 9,5 stai arrivando, il solito arrivi 9,20. Grazie per essere con noi. Esatto, continuerà a fare il dispetto. Hola, non si. Ora dice di un'avventura politica quando il 3 centenale, cambio il popolo e è stato via la prima repubblica. pensava che era carezza l'idea di poter formare con voto politico, crea forse chi ha di offetto alleanze con la Lega di Forza, per Salvini, i cittadini e Massa. Fondo scala stazionari. L'esecutivo con la decisione iniziata da Tajani, vice premier e ministro degli esteri, non mancano le polemiche per la nostra. Bisogna mettere in linea per la nostra parte, è compito di analisi. Su che andiamo, dai, su, su, su che si prepara. Oh, io, mamma mia, come sto? Mamma mia, come sto? C'è qualcuno qua? Hola. Natali. Il capo dell'antenna mi ha tagliato, sto uscendo solo col capo. Però l'ha tagliato da su, non si può rimediare. No, non segna neanche il corso. È staccata l'antenna praticamente. Scusa, allora hanno crattato l'UBL. Evidentemente sì. Allora ha pigliato l'UGAP e l'ha tirato, più che cuscino è. Infatti. Sicuramente ha fatto danno pure all'antenna. Va. Come ci sono che arrivati i segnali? 9:20, sì, radio 5. Insomma, anche per motivi... Magari è attaccato il coso, però non c'è il corto. Perché qua il segnale è forte, va bene. Con quanti batti stai pilotando? Con 2 watt. Cosa vuoi, 9:20? Ma c'è un fondo di stazionarie. Oh, strano, le stazionarie. Strano, boh. Cazzo, un attacco. Qua c'è 9:20, Come arrivavo prima? 9:20, uguale. E c'è con 2 watt. Cazzo, c'è arrivato di 9:20. A me come mi ascolti? Basta vedere il mio segnale, quant'è? È quasi no, fondo scala, sì. Allora l'antenna non va nuda. Se fosse stato il capo, non saresti uscito. Se vai a ruga buttare il capo, non esci, Adesso è controllo Rubiele, allora vai in obbi. Mica non sia Rubiele che non è fende massa. Ma va che tu cosa cazzo, raffigliato, al culo, a volte qua, a volte mossare, la merda. Hola, sì. Boh. Beh, diciamo, stazionari, io invece. Cazzo di... Cosa ride? Quasi 2 di stazionari e ciò. Lascia vedere. Quasi 2, dai. Che non mi inquadra. Chiamata quando hai finito. Ora. Ciucucciù. Ora, Ciu. Attenzione sul canale di CK. Attenzione sul canale di CK. Hola. Hola. Attenzione sul canale di CK.